cioè io sono arrivato a Mondeggi perché non ci posso camminare, insomma, hanno detto andiamo a vedere questa cosa, mi avete fatto tornare indietro a quando avevo 24 anni e soprattutto mi avete ridato il senso di qual è l'importanza di prendersi cura della terra, riportarla in produzione e dare possibilità, poi come giustamente diceva Francesca, rispetto a come decidete voi di andare avanti sul percorso, però di dare anche stabilità alle persone. La prima fase quindi dell'occupazione della cooperativa Agricoltura Nuova è chiaramente, ho preso tutto un brano che io ho sbobinato, che è stata presentata è stata fatta una grossa presentazione per ricordare tutte le occupazioni delle terre intorno a Roma, che è avvenuto nel 1877 da parte di uno dei suoi fondatori. Io poi all'Agricoltura Nuova arrivo nel 1987 come docente di formazione professionale all'interno di un corso per persone disabili. Diciamo che però l'Agricoltura Nuova è sempre nel mio cuore, nel senso che non l'ho più lasciata, anche se poi ho fatto altro, io torno ancora e vado da lontano a sistemare i computer oppure a sistemare parte dell'impianto di irrigazione, di cui diceva anche a Francesca, non mi ricordo a chi, se poi c'è bisogno veramente di un paio di mani sugli impianti di irrigazione, su determinate sistemazioni idrauliche agrarie, io ci sto. Sabato e domenica non costo tanto, nel senso passa a andare in posto dove fare e andare in posto. Allora, 1977, diciamo che io partirei, posso scrivere? Io comincerei a parlare del 1985, cominciamo a fare una timeline, non l'ho sbagliata perché sono grande. Comunque, intorno a Roma si comincia a riflettere innanzitutto su una cosa: impedire la speculazione dei terreni da parte dell'edilizia. La Roma ci stanno dei costruttori, definirli banditi è dir poco, però voglio dire, avevano messo gli occhi su determinati terreni che erano in periferia, completamente abbandonati a se stessi, incolti, e sicuramente volevano fare una grossa speculazione. Guardate bene, in posti dove poi non c'era assolutamente niente. Voi immaginate posti nel deserto dove non c'erano i servizi e teoricamente poi avrebbero portato i servizi, dipende quanto, ma servizi, si tratta del mercato rionale, si tratta dei mezzi pubblici, trasporti, acqua, telefono. Voi vi tenete conto che in zone delle quali parliamo, ovvero sia la parte delle tre decime che si trova partendo da Lerno, non so se lo conoscete come quartiere, andando sulla Montina verso Latina, si trova sulla parte sinistra della Montina. Quello ormai fortunatamente è stato bloccato tutto quello che era lavoro di speculazione edilizia, però pensate bene che Trigoria, forse qualcuno l'avrà sentita perché c'erano gli ampi della Roma, la DSL e la fibra ancora deve arrivare, ok? Stavano con delle centraline telefoniche dentro dei containers, quindi la gente comincia ad incontrarsi, perché poi alla base io credo delle cose più importanti, la gente deve incontrarsi, scoprire che ha le stesse esigenze e cominciare a parlare. Quindi dal 1975, quindi non ammazza, questi sono proprio lenti, 1977 c'è stato tutto quanto una serie di incontri, anche di, passando per questo termine poco ortodosso, di scazzi perché per esempio c'era la frase della CGIL che diceva andiamo ad occupare, mentre invece c'era la filea, ovvero sia gli edili, che dicevano no, la dobbiamo costruire. Quindi diciamo che oltre alla parte sindacale c'era anche un movimento dei braccianti agricoli della zona. Tenete conto che lì erano tutti quanti terreni che erano di Conti, Marchesi, e quindi stavano tutti là in mezzo a braccio palo. Ma non sono passati. E quindi di conseguenza cominciarono a mettere in piedi dei gruppi che cominciassero a innanzitutto bloccare questa speculazione edilizia, ma soprattutto ipotizzare un futuro lavorativo per i giovani, che per il momento sembra strano, no? Ma poi si è mai fermato solo il problema che non c'è il lavoro, non sembrava lavoro, e quindi di conseguenza anche per garantire un futuro, un'occupazione a chi sceglieva di occuparsi da lì. Da quindi ogni tanto mi attinge a quello che ho scritto. In questa fase, a parte tutte quante le discussioni politiche, c'era anche un grosso discorso organizzativo, perché uno dice sì, andiamo, occupiamo 180 ettari di terra, ma io sì, 180 ettari di terra poi non mi metto a produzione se non c'è una via. Quindi di conseguenza decisero anche di avviare una sottoscrizione. La gente all'epoca c'erano le lire, 50.000 lire, 100.000 lire. Chi versava era quasi sicuro che poi non avrebbe visto quei soldi. Però chiaramente c'era la necessità di avere trattori, 180 ettari, ma se io li devo mettere in produzione e parto dall'orto, che è la cosa diciamo più veloce che mi permette di realizzare economicamente un po' di soldi, però c'ho bisogno della pompa, dell'acqua per portarli sull'acqua e di irrigare, perché io posso piantare le piantine, posso lavorare, posso fare tutto quello che volete, ma se poi non c'è l'acqua non si poteva. Quindi fino al 1977 grosse discussioni, analisi dei bisogni, che cosa dobbiamo fare, analisi delle competenze, chi è che sa fare cosa e può insegnare agli altri, che è fondamentale, perché poi all'epoca i giovani magari erano appena usciti da scuola, però esperienza di agricoltura, esperienza di campagna non ne avevano assolutamente. In più, e questa era un'altra grande cosa, in questo periodo non è solo l'agricoltura nuova che occupa terre, ma in realtà c'è un progetto molto più ampio: creare una cinta verde intorno a Roma che possa permettere, sembra una cosa assurda, ai romani, ai cittadini, di andarsi a fare una scampagnata in campagna senza trovare un cancello o un filo spinato. Gli indiani dicevano il filo spinato rovinerà la prateria, no? E quindi, però Roma era la stessa identica cosa, perché tu non ti puoi muovere perché trovi subito un cancello di proprietà privata. Allora l'idea invece diceva di creare una cinta verde intorno, accessibile a tutti. Che c'è? No, no, nulla. Posso, se molto sì, non lo so. Scusate. Allora, creare questa cinta verde, un po' di protezione, perché in realtà nel momento in cui crei una cinta verde, dopo non vai a continuare a edificare, a speculare, ma soprattutto perché dai un senso differente alla cittadinanza romana di viversi il verde. Ok? dei 50, 100, 100 milioni di lire, ne abbiamo già parlato, e sa, pensare che il 77 erano tante, quindi significa che la gente ci credeva proprio. Tirare fuori dalla saccoccia 100 milioni di lire, metterla all'interno di un fondo, non sapere se tornerà indietro, era una bella prova. Però in realtà io credo che nel momento in cui tu decidi di partecipare a qualcosa di grande, perché a mio avviso quella cosa è stata estremamente grande, quell'occupazione, non te ne preoccupi, perché poi i benefici che non soltanto a te, no, ma insomma alla popolazione, quindi una scelta proprio politica di cittadinanza e di vivere la città in una certa maniera, ce l'hai il ritorno. Dopodiché ci si è resi conto che un po' di soldi si erano raccolti, si era cominciato a pensare, si era comprata una pompa, si era comprato un trattore, che devo dire io ho guidato, ed è stato ancora sopravvivere quel trattore, una grande soddisfazione, però ci si rendeva conto che c'era la necessità di un grande movimento di volontari. Non è la situazione sicuramente dei mondeggi, però tenete conto che voi là già ci siete, lì bisognava entrare, rompere le catene, i cancelli e stare 24 ore al giorno lì a presidiare, quindi si lavorava e si presidiava, ok? Quindi si cominciò anche a creare in più un grosso movimento di volontari. E in questa fase entra la comunità Capodarco di Roma, che è l'ente di formazione per il quale io ho cominciato a lavorare tanti anni fa. Lì c'erano un sacco di volontari, obiettori di coscienza all'epoca, che dopo i 2 anni dicevano: vabbè, ma io che cosa mi metto a fare? E quindi videro nella cooperativa Agricoltura Nuova un'ipotesi di futuro. Questo discorso dei volontari è estremamente importante, soprattutto anche a livello di scelta poi condivisa all'interno dei gruppi che hanno queste grosse esperienze, semplicemente per un motivo, che c'è coscienza che il tuo lavoro è gratis. La terra è bassa, giusto? Sì. La terra è estremamente bassa. Sì. C'è il rischio che lavori tutto il giorno e tu sei volontario e forse rimedi giusto il pasto e poi una serata fra gli amici con una boccia di vino. Però all'interno poi di movimenti di questo tipo c'era questa presa di coscienza: io lo faccio perché c'è una comunità che ha scelto di lottare su quella situazione. Questo ve l'ho raccontato già nella Cinta Verde, da lì uno comincia a dire: e quando vi occupiamo? Che giorno? E ora io ogni tanto faccio la battuta e dico: non riusciremo mai a fare evoluzione perché non arriveremo tutti quanti a stessi raggiungere. Il 2 luglio 1977 alle 6 di mattina su via Valle di Perna parte questa carovana, poi lì c'erano dei mezzadri che usavano abusivamente dei terreni. Tenete conto, mi sono scordato di dirvi una cosa estremamente importante: questi terreni erano terreni del comune di Roma, chiaro che non è poco, perché su un terreno privato, a meno che non c'è la forza di migliaia di persone, se ne arrivano e sparano, ok? Erano terreni del comune di Roma che aveva abbandonato a se stessi. Aveva abbandonato, io direi che l'aveva parcheggiato là in attesa di una speculazione edilizia di un certo tipo. Sono 180 ettari, alla fine si entra, tenete conto che sono arrivati la famosa Cinta Verde, all'Anuvio ci fu un'occupazione delle terre. Adesso non abbiamo la mappa di Roma, comunque tutto intorno a Roma ci fu questo movimento di creazione di cooperative agricole e di occupazione delle terre. Da tutte quante queste cooperative molto più piccole arrivarono persone con mezzi e con trattori per avviare l'occupazione, perché ricordate che nel momento in cui entri la cosa più importante qual è? È quella di lavorare la terra, perché tu nel momento in cui hai lavorato e hai arato, quindi tu entri su un terreno incolto, tu lavori, hai arrivato a quel punto nel 1977, non lo so se è cambiata un po' la legislazione, io estimo, l'ho studiato anni fa essendo un periodo agrario, e lavorarono giorno e notte, ararono la terra giorno e notte in maniera tale che nessun altro gli potesse dire voi qui c'è stato in maniera indebita. E le persone si diedero il cambio 24 ore al giorno per stare lì e per lavorare. Grosso problema, da quando è cominciata la famosa occupazione, poi hanno cominciato la prima produzione, ok? Tenete conto che le prime produzioni, noi quando arrivai, mi raccontarono che producevano la bieta per la GS tramite accordi commerciali. Voi tenete conto 4-5 ettari sulla bieta. Siete zoppa, la bieta sei morto. Ok? Quindi diciamo che all'inizio sono state fatte delle prove, delle scelte, alle volte molto. Scusa, strane. Cos'è la GS? La GS è una vecchia catena di distribuzione dei supermercati. Ah, ok? Però voi usate la pietolina con la bassa, quella rossa e la verde, la gialla. Comunque, la cosa più importante, ma la lotta più importante, dopo aver cominciato a mettere in produzione la terra, era la capacità di sottoscrivere un affitto col comune, perché la sottoscrizione di un affitto ti dà innanzitutto la titolarità a rimanere e a lavorare con le terre e a viverle, ma soprattutto ti dà una possibilità di accesso al credito, riconoscimento a livello dei documenti istituzionali, partecipazione a bandi, semplicemente partecipazione a bandi. Quindi la grande l'operazione successiva fu proprio la lotta, mentre si continuava a sistemare l'azienda, la lotta per l'ottenimento di un affitto equo che permettesse di essere legalmente presenti e lavorare con le terre e tutto il resto. Ma è bene che non è poco, perché per esempio in quegli anni e soprattutto successivamente, quando uscì fuori la legge sulle cooperative sociali, avere e non avere certe cose era fondamentale per partecipare ai bandi e ai finanziamenti, perché sulle cooperative sociali c'erano dei finanziamenti che praticamente tu dovevi anticipare i soldi, ma per esempio tutti quanti i macchinari te li ripagavano completamente senza ripagare, però quello era un grosso sostegno, per esempio dal Lazio. Arriviamo, insomma, abbiamo questi 10 anni nei quali trick track, sempre lotte sull'affitto e sempre più sistemazione dell'azienda e soprattutto anche con l'esperienza, scelte mirate rispetto a quello che si fa su quei territori. Io arrivo nel 1986, a maggio, e trovo una situazione di questo tipo. L'azienda aveva una parte a orto, erano mi sembra un 5-6 ettari orto, aveva 1000 capi di ovini, da dove chiaramente produzione di latte di pecora, trasformazione in formaggio, ricotta e vendita della carne prevalentemente a Natale e a Pasqua degli abbacchi. Lui ci aveva la lezione da abbacchi a Natale e Pasqua. A Roma sì. A Pasqua Roma, sì, purtroppo. A Pasqua sì. A Pasqua sì. Sì. No, vabbè, tanto. No, c'è più Roma, stanno a Roma quelli che mangiano la faccia. Allora, noi gli agnelli siamo. Dopodiché, e quindi, in più, chiaramente, c'era tutta quanta la parte di supporto ai mezzi, quindi una grande officina dove si lavorava per sistemare le macchine. Le macchine si rompono, purtroppo gli aratri si rompono, devi saldare, devi fare tutto. Quindi la parte tecnica interna all'azienda con soci lavoratori che si occupavano soltanto di quello. C'era un punto vendita interno alla cooperativa e badate bene, la gente per arrivare là si deve fare 2,5 chilometri di strada totalmente sterrata. Io la facevo 2 volte al giorno quando andavo a lavorare, io ogni 6 mesi cambiavo le gomme da macchina, perché era punto vendita interno, in più avevano 2 punti vendita in 2 mercati di vicino, dove chiaramente vendevano tutta quanta la verdura, la ricotta, formaggio, formaggio primo sale, semistagionato e formaggio stagionato, quindi pecorino fresco, semistagionato e stagionato. E lì si comincia anche a pensare che l'azienda deve continuare ad essere un punto d'incontro, perché se no ti sei fatto la tua azienda, giusto? Personale. Mentre invece se tu vuoi continuare a portare avanti certe battaglie, l'azienda la devi aprire agli altri. Ci puoi dire un secondo come siete per il passaggio dall'occupazione all'azienda? Perché c'è la decisione, perché è diciamo un po' interessante proprio per... Sono stato poco chiaro io. No, chiarissimo. No, però... La decisione come è stata presa, diciamo? Beh, io se occupo una terra so che là sopra ce la do a fare una cooperativa agricola. Cioè, non è che ho deciso dopo, Cioè, voi l'avete occupato già sapendo questo. Stai dicendo questo? Ma scusate, perdonate, non è tanto bene, ma se uno ha un progetto in mente, io uso sempre queste frasi, qualcuno mi dice che sono romantico, però le dico lo stesso. Se uno ha un sogno in mente e lo vuole realizzare, deve capire come progettarlo, dopodiché deve pensare quel progetto come realizzarlo e dopodiché, scusatemi, è una cosa fondamentale, deve pure verificare se tutto quel progetto, cioè tutto quello che aveva sognato, pensato, progettato, l'ha realizzato come voleva, perché poi insomma, voglio dire, i sogni sono belli, però poi le dinamiche relazionali, per esempio fra i soci, possono diventare abbastanza pesanti. Io in quello dico, le discussioni ci stanno e sono fondamentali nella vita, basta che ci sia trasparenza. Cioè, due persone si possono mandare a quel paese, ma anche in malo modo, si possono dare pure le palate dietro la schiena. La cosa importante è che ci sia sempre trasparenza alla fine e si cerchi di raggiungere l'obiettivo di tutti quanti. E quindi la scelta migliore, perché sennò quello è un grosso problema, prima di partire già sei cascato. Cioè, se tu non hai la capacità di litigare, però poi di arrivare a quel punto di comprensione di tutti quanti, se buttano un sacco di soldi e un sacco di energie. Dimmi. Negli stessi anni partivano i progetti di università della Terra e l'Asio, ci sono stati sì. Anni, per esempio, che a differenza di questo caso lì erano su terra, diciamo, di uso civico. Quindi avevate rapporti con quelle esperienze lì, che differenze c'erano? Guarda, allora, quella parte, io dicevo, arrivo nel, avevo pochi anni nel 77, insomma, sono del 63. Fate due conti, insomma, c'avevo 13 anni, non lo so, io in quello scritto che tra parentesi ho sbobinato per la preparazione a un libro non ho trovato. Io quello che dico è che però questo è stato un movimento estremamente vasto, eh? Cioè io rileggendo questi scritti credo che cosa di questo tipo, scusate, forse sbaglierò, ma adesso non le riusciamo più a realizzare. A meno che non si ritorna a una presa di coscienza tale che ti permette, che ti permette di capire che per agire un cambiamento estremamente importante te devi mettere insieme tanta gente. E badate bene, io credo che ancora ci sia la necessità di bloccare la speculazione edilizia, di rimettere a giusta produzione delle terre, ma semplicemente perché noi così andiamo a creare il futuro e manteniamo un futuro di un certo tipo, perché se diamo spazio soltanto alla cementificazione siamo finiti, ma anche all'abbandono, perché poi l'abbandono, vediamo quello che succede, cioè c'è sta più gente che in montagna si occupa della montagna e in montagna vengono giù. Che sembra una cosa assurda, no? Perché poi scappano tutti quanti in fabbrica perché la terra è pesante e il bosco pure non è leggero. Quindi, voglio dire, quando è così. Però io credo che ricominciare a dare coscienza a queste cose sia estremamente importante. Io arrivo nell'87, corso di formazione professionale per ragazzi disabili. Cioè, io avevo allievi di tutti quanti i tipi. Ritardo mentale, malati psichiatrici, ci avevamo anche qualche allievo che aveva dei problemi motori, però siamo riusciti, visto che hai aperto solo questo tema, la cooperativa è una cooperativa, una società cooperativa o una cooperativa sociale? Aspetta, no, perché il passaggio l'avrei sottolineato dopo, quindi stiamo parlando di cooperativa agricola, cioè no. Questo perché, scusatemi, ma visto che amo tanto la cooperativa, ma amo anche tanto la mia storia, le mie scelte, faccio un passaggio non indifferente. Allora, diciamo che io vado a lavorare a Capodacchia e lavoraco, come li chiama qualcuno in maniera scherzosa, i mattarelli, io ho lasciato perdere dei lavori che potevano essere sicuramente più redditizi e più confortevoli. Però io a un certo punto mio padre ancora si sta rigirando la tomba perché dice ma che detto che fatto? Però a me sembrava di lavorare e fare quello che mi piaceva, che credo che sia una fortuna, cioè fare quello che vuoi lavorare. Io facevo la battuta, qualche collega mio si arrabbiava perché dicevo oh, io mi diverto e mi pagano pure, che dici? E qua di là. Allora, avevamo questo corso di formazione professionale, capo d'arco, i volontari avevano partecipato all'occupazione, quindi a un certo punto, essendo agricoltura nuova sensibile ai problemi sociali, partivano questi corsi nella zona sud di Roma, non c'erano spazi dove farli, invece c'era una richiesta perché c'era un sacco di gente che stava male, soprattutto dal punto di vista psichiatrico, diedero degli spazi a disposizione. Io poi come sempre mi allargo perché eravamo arrivati a fare dei lavori di pulizia del giardino o aiutare loro all'orto, occuparci dei maniali. Alla fine io sono arrivato al 1997, scusate, sono delle date un po' particolari per me, c'avevo tre sempre. Quindi praticamente facevamo una produzione di piante stagionali con i ragazzi E badare bene, si partiva dalla semina, quindi non si comprava una piantina, si partiva dalla semina, il letto caldo, preparazione del terriccio, ripicchettatura all'interno dei vasi, mantenimento fino a portare a fioritura e poi lì si facevano, si vendevano due sordi e poi i ragazzi qualcosa si portavano a casa. E sembra una cosa assurda, però cioè, io sono riuscito a far lavorare anche uno che aveva un problema, cioè non era solo un dito. E io credo che sia fondamentale, soprattutto in queste realtà, riuscire, se ci si riesce, a dare spazio a persone, diversamente da me, a me non mi piace, a persone che hanno delle difficoltà, che possono essere di tutti i tipi, pure io se ho una gamba che mi fa male sono in difficoltà. Alla fine l'agricoltura nuova, sempre attenta al sociale, che cosa fa? Parte che aveva assunto due o tre persone con problemi nella sua azienda, all'epoca, io non so se ancora sia così, adesso forse era, all'epoca era un delitto chiudere una cooperativa, era un delitto, era una sconfitta. Quindi di conseguenza noi prendemmo una cooperativa che stava in cattive acque, la trasformammo in cooperativa sociale. La cooperativa si chiamava l'AURCOP perché operava sulla Laurentina e lì cominciamo a fare manutenzione del verde, continuiamo con la produzione delle piante fino addirittura alla costruzione di un punto vendita per vendere le piante. E lì io, lì fu un Natale bellissimo semplicemente per un motivo, perché il punto vendita fu costruito, tenete conto che era il doppio di questa stanza, completamente in legno, perché io sono fissato che bisogna costruire le cose in una certa maniera, e io c'avevo tutti i soci della cooperativa Agricoltura Nuova che quando finivano di lavorare ci venivano a dare la mano a costruire il punto vendita, perché poi tra parentesi la solidarietà fra i soci e fra le esperienze con le quali viene il rapporto in relazione è estremamente fondamentale. Questa è un'altra grossa cosa, perché poi la progettazione, il sogno, io realizzo il mio sogno, ma il mio sogno poi devo permettere anche ad altri di vivere loro, se c'ho la possibilità e se ci si incontra. Se ci si incontra sulle idee, sopra i valori, e bisogna darla questa possibilità a me. Sono troppo romantico, vero? Ah, cosa pratica? Là si apre un attimo la finestra. Sì. Questo sarebbe il momento di passare a farlo a Fulvio. Ok. Come tempo? Posso finire solo due cose? L'ho detto che sono troppo logorroico, scusate. No, non si apre. Allora, dal 1977, 25 aprile, 1 maggio, 2 luglio, chiaramente sono feste. Sempre, dal 77. In più adesso si organizzano altri eventi e la cosa più incredibile è che l'agricoltura nuova adesso si è trasformata in una cooperativa agricola sociale. Arrivato a questo punto, cioè è diventato qualche cosa di bello. Di produzione? No, assorbito, sì, certo, sono rimasti. Diciamo che adesso cioè l'evoluzione è, tu cominci a vedere le produzioni, caseificio adesso non produce solo la ricottina e i quattro pezzi di formaggio, ma produce spalmabile, produce mozzarella, e questo chiaramente serve, cioè la gente poi deve andare dai maestri caciari a imparare a fare determinate cose. Dopodiché adesso c'è un grosso ristorante dove è comunque un punto d'incontro, c'è un maneggio dove fanno anche ipoterapia, si continua con la coltivazione del grano tra parentesi, l'anno dei mondiali è stato 1990. Altri due pezzi di terra che stavano proprio all'imbocco, che noi chiamavamo le due patate, sono stati occupati, quindi da 180 ettari sono arrivati a 210, perché anche là volevano costruire. Ok? Basta, perché già mi hanno bacchettato. L'unica cosa importante è una sola: non bisogna scordarsi degli altri. Se uno fa una scelta di riprendere la campagna, rimetterla in produzione e dare il giusto senso a quello che è una protezione dell'ambiente, questo non può che non passare anche sulla testimonianza e la formazione delle nuove generazioni. Ormai a Rivoltura Nuova arrivano le classi a frotte e loro gli fanno praticamente vedere tutto. Voi tenete conto, sembra una battuta, ma alcuni ragazzini pensano che veramente le uova stanno dentro una fabbrica. Non lo sanno che una mucca produce latte, perché poi a un certo punto partorisce. Quelli pensano che quelle sono macchine da latte. In realtà i ragazzi poi si fa fare l'esperienza della semina, gli si fa vedere come si prepara il pane, come si prepara il formaggio, cioè gli si fa capire che dietro a quello che poi loro consumano, tra virgolette, invece c'è tutto quanto un lavoro e c'è tutto quanto un rispetto, un'attenzione, perché lo sappiamo perfettamente che il contadino deve rispettare il calendario annuale, non è che può correre, perché se corre fa come uno che una volta pensava che fa schiudere i pulcini bastava mettere al doppio nel forno e ha fatto tutte cose. E questa è un'altra cosa che mi preme molto, sì, l'educazione alle nuove generazioni. Voi ci dice avete un patrimonio, ragazzi, io il video lo dico proprio perfettamente, ma voi ci avete un patrimonio non indifferente dove potreste veramente fare tantissime cose. Io vengo sulle mani, non rompo le scatole, sto pure zitto, vi giuro non parlo più come stasera, però sabato e domenica se avete bisogno di qualche cosa io ci sono. Va bene? Quelle che non hanno vissuto. Il problema è che è vero. Scusa, no, posso, è vero. Posso una domanda? Perché volevo capire più bene. Allora, avete occupato? Abbiamo occupato. Avete fatto la cooperativa? È stata fatta contestualmente la cooperativa. Contestualmente all'occupazione? Perché all'epoca era così, no, era molto più veloce. Era per capire. Cioè, il c'è tempo, presto che tardi, e il Bianconiglio lo dice, eh? No, un momento di riflessione, ma poi devi pensare, devi agire, se no quando si parte? Era per capire, poi quindi, cioè, il comune va dato l'affitto dopo tutti questi anni? Dopo dieci anni. Anzi, e in questi dieci anni è successo, scusa? In questi dieci anni hanno continuato a lavorare, a produrre. Sì, ma il comune come si è comportato? Il comune come si è comportato? A forza di manifestazioni, gli idratori e le bandiere sotto a cosa? Hanno mai tentato di sgomberarli? Qualche volta sì, ma poi fondamentalmente. Però non terra. Ma poi voglio dire, insomma, poi c'era sempre la persona. Oh, ricordatevi che comunque in quel periodo c'era. Il comune era di sinistra, quindi diciamo che di sinistra vera dovrebbe essere, di pseudo vera, infatti io ho detto di sinistra rispetto a ora, non lo so, la sinistra mia è una, non so, no, però ecco, c'era anche una tutela, voglio dire, sotto certi aspetti, no? C'era una tutela politica, è chiaro, se no alcune cose ne potevi fare, dopo due minuti arrivavano i carabinieri e ti sgomberavano, quindi sono arrivati. Davanti i carabinieri sono pure arrivati perché hanno fatto una mostra all'aperto, un artista, e aveva portato delle statue in travertino. Aveva portato un piede così gigante. Uno che era venuto a visitare la cooperativa ha telefonato, questi ci hanno riperti archeologici. E poi quella zona è piena di reperti archeologici. È una cosa incredibile. Pensate che lì c'è un fiumiciatto, che da lì arriva fino al mare, 200 ettari, è una terra, diciamo, bellissima, comoda, perché è quasi tutta quanta piana, diciamo che lì se ne fanno. Adesso hanno messo anche allevamento di mucche, in più lavorano e hanno, hanno una compartecipazione con Amatrice. C'è una cooperativa da Amatrice che purtroppo dopo il terremoto, io ci sono andato, mi sono sentito male, però lì continuano a fare carne, loro fanno carne, diciamo che hanno ampliato. Però io quello che devo dire del presidente è di tutta l'assemblea dei soci, è che i passi sono stati fatti piano piano e ragionati. Nel momento in cui sei partito, poi è chiaro che devi... Quanti sono i soci? Adesso in questo momento pensavo a far conto proprio oggi, perché Francesca mi ha detto, vabbè, ma tu eh? Ma perché i numeri a me non mi piacciono, mi piacciono più le soci di sé, le idee, quello che succede. Sono una cinquantina di soci. C'è tutta la parte amministrativa, perché sai, gestiscono tutta quanta dentro. 50 e lavorano tutti dentro. Lavorano tutti quanti dentro. Qualcuno poi è andato. Dico solo questo, qualcuno è andato a fare l'autotrasportatore fuori oppure è andato a fare il pompiere, l'autotrasportatore è tornato e il pompiere continua a far pompiere, ma poi torna in azienda e porta, c'è la patente perché chiaramente per porta i camion, si fa tutti quanti i lavori. L'ultimissima cosa, mi raccomando, salute e sicurezza, questo è fondamentale. Non prendiamo sotto gamba quello che è un lavoro in agricoltura, perché non è cattiveria, il trattore si sbarda, la scala si rompe, la forbice di taglia, non sembra una cazzata, scusate ma io sono un RLS e a ste cose ci sto, cioè ci stavo attento prima, ma ci sto ancora più attento adesso. Purtroppo qualche incidente è successo. Ok? Mi raccomando, lavorare sempre con attenzione e in sicurezza. A parte quando ti arriva lo sciame di api che sta in asciavale, allora tu corri. Senti, scusami, e altri sostenitori esterni, non è prevista la partecipazione alle decisioni della cooperativa? Cioè, sono i soci, ok, vai. Veramente sì. Allora, tutti, ti dico solo questo, io sono una persona che sotto certi aspetti mi tengono molto in considerazione. Io lì mi sono sposato, non mi hanno fatto manco mai la io sono sempre là, cioè loro mi chiamano e io dopo 30 secondi sto là, ma io non mi permetto di mettere bocca sulla loro scelta, perché è una questione di rispetto nei confronti di chi lavora e di chi si impegna e di chi è socio all'interno della cooperativa. Uno deve imparare a guardare, stare zitto, però a far volontario. Quindi te dici ho tre ore? Bene. E un'altra cosa. Anche da voi se vengo, non dico niente. No, allora. I soci che sono entrati nella cooperativa erano tutti occupanti, no? Se ho capito bene. Alcune sì, alcune no. Ma quindi erano comunque tutte persone che facevano agricoltura o volevano fare agricoltura. Certo. Tenete conto di una cosa, che non è che se parti e uno diventa ricco, Ah no? Perché la scelta di un socio lavoratore della cooperativa significa che, guardate, che i primi anni sono duri, perché tu quei soldi che hai li devi reinvestire, perché sennò non puoi. Quindi, certo, poi non mi nascondo che c'erano i famosi 150 giornali, no? Del bracciante, quindi delle casse integrazione, queste cose, quindi un po' ci hanno lavorato su questa cosa, ma in definitiva è vero, si piove e non puoi lavorare perché magari in serra non c'è niente piantato, che fai, quindi è giusto. Però certo, lo stipendio non era il tabellare del contratto collettivo nazionale. Alcune cose si raggiungono piano piano, ma in tutte quante le cooperative. Io sono stato vicepresidente della famosa LAVCOP. Io non ho mai preso una lira. Ci ho messo i soldi dentro. Però grande soddisfazione quando vedi che i ragazzi lavorano, lavorano tanto e tu gli riesci a dare quella dignità di soggetto attivo, perché loro prendono dei soldi, se li gestiscono e se li spendono come vogliono. L'ultima domanda, ci sono anche delle situazioni abitative lì dentro? Sì, ci sono 5 famiglie che lavorano, che abitano lì dentro. Perché c'è un casolare, c'è... No, diciamo che addirittura hanno preso un silos e l'hanno trasformato in due abitazioni, che io mi ero chiesto, via, via! La casa rotonda è una cosa fantastica, è bellissima la casa rotonda. Il silos ti manca, pensate solo a fare mobili, tutti rotondi. È grande un silos, il silos è interessante. Cioè, due monopoli. Ragazzi, tutti i mobili rotondi! Una bomba, certo. Poi tenete conto che lì poi la scelta è, ma questo io credo che sia una cosa, una scelta di qualsiasi cooperativa, decidere se il socio che abita lì è, paga qualcosa oppure se è gratis, anche perché voi tenete conto che chi abita lì è quello che poi tutte le notti se sente rumore si deve alzare. Tenete conto che chi abita lì e magari si deve occupare dell'orto la sera si deve alzare e deve andare a spostare i tubi dell'acqua. Io con la Ranco tutti i sabati e le domeniche dal periodo primaverile a fine autunno inoltrato tutte le mattine andavo a alzare le finestre della serra, delle serre, e la sera le andava a passare, che c'era mia moglie che mi diceva usa lo stronzo. Fondamentalmente c'è cioè, da dire che se tu lasci la serra passata non apri le due testate, non chiedi su tutto quello che c'è dentro 30 secondi la buttavano. Quindi voglio dire, quando uno fa determinati ragionamenti deve capire anche i benefici che ci stanno dentro, la gente là fa guardiania, fa controllo e soprattutto interviene in qualsiasi situazione, incendio, cioè voglio dire, è comunque una situazione... Continua a presidiare. De presidio. Bene. Per grazie. L'ultima domanda, sì no, solo sì no deve dire. In realtà come queste articolatissime, eccetera, la cooperativa agricola barra sociale è l'unica sua possibilità. Così grande a Roma, sì. Ok. Altre ce n'erano, devo dire, molto più spinte, lo so, sì, no, mi avevi detto, però poi i vari comuni di destra l'hanno sbragata completamente rispetto alla manutenzione del verde, perché poi quelle, ragazzi, con una cooperativa sociale integrata a un certo tipo, può partecipare ai bandi, può fare un sacco di cose. Io mi sono andato per esempio a vedere, non è che spingo su una cooperativa dove mi prendete anche i mattarelli, però io ho visto che in Toscana c'è la manutenzione del verde, cioè, c'è un sacco di lavoro, sì, perché io dovete lasciare l'acqua, una situazione così che potete utilizzare quello che rientra per migliorare la situazione di contenuto.